In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna. Quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: quest'ultimi hanno lavorato un'ora soltanto. E li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata, il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Questa parabola, quando la leggiamo di primo acchito, ci dà un po' fastidio perché ci sembra proprio una parabola che rivela un comportamento quasi ingiusto da parte del padrone di questo regno e quindi praticamente di Dio. E quindi Dio ci sembra ingiusto in questa parabola, ma a ben guardare invece. Vediamo che questa parabola ci dice ci dà un grande insegnamento, anzi tanti grandi insegnamenti. Innanzitutto ci dice che il Signore chiama a tutte le ore. Infatti ci sono persone che fin da piccole seguono il Signore e ci sono persone che magari lo seguono l'ultimo minuto della loro vita o l'ultimo anno o gli ultimi 5 anni, chi lo sa. E noi, non so, ciascuno di noi ha una storia, chissà, chi starà seguendo magari il Signore da una vita e chi invece magari l'ha scoperto da poco. Comunque, questo sta a significare che, se il Signore esce a cercare questi operai per lavorare nella sua vigna, vuol dire che esce diverse ore, nell'arco della giornata, vuol dire che praticamente sta in cerca anche nostra, di noi, di tutti, e ognuno, risponde a un'ora diversa. Che cosa, questa parabola ci insegna anche? Ci insegna anche che non dobbiamo essere invidiosi, non dobbiamo mai fare i paragoni. E noi invece spesso ci paragoniamo, anzi, tante volte, la nostra infelicità sta proprio, perché ci paragoniamo agli altri. E ci paragoniamo secondo dei canoni nostri, senza tener conto di tutta la realtà. Per esempio, nel caso degli operai della prima ora, gli operai avevano concordato col padrone per un denaro e quindi non doveva destare sorpresa il fatto che alla fine ricevono un denaro come quelli che invece hanno lavorato soltanto l'ultima ora. Ma a noi ci sembra ingiusto questo comportamento, ma pensate chi è stato disoccupato o chi lo è disoccupato sa quello che sto dicendo. Pensate che dolore, che ansia, che sofferenza non poter lavorare, voler lavorare, avere la forza di lavorare e non poter lavorare nel senso di non trovare lavoro. Pensate che angoscia non poter provvedere alla propria famiglia. È terribile questo, è molto peggio che sopportare il caldo, che sopportare, che avere una giornata faticosa di lavoro, perché una giornata faticosa di lavoro è vero, noi ce ne lamentiamo, però guardate, è una fortuna, è veramente una benedizione avere un posto di lavoro, poter lavorare in qualunque tipo di lavoro, perché ogni lavoro ha la sua dignità. Quindi oggi ringraziamo il Signore se abbiamo il lavoro e non ci lamentiamo del lavoro, anche fosse faticoso, perché? Perché ci dà modo di portare avanti la nostra famiglia, oltre che naturalmente di trasformare noi stessi e di incidere nel mondo. E poi cerchiamo, di non essere mai invidiosi, di non fare mai il paragone con gli altri. E di rispondere alla chiamata del Signore. Buona giornata.